C'è un leader politico del quale mi guarderò bene da rivelarvi il nome per non correre il rischio di influenzare sia pure in modo allusivo e surrettizio le vostre libere scelte. C'è un leader politico che mi guarda dal suo manifesto e non crediate di aver capito chi è, perché par condicio non possiamo parlare soltanto di Berlusconi. Mi guarda dal suo manifesto e mi chiede se decido io o il Vaticano, invitandomi in seconda battuta a liberare il sesso, la scienza, la vita. L'esortazione, lo ammetterete, impegnativa e francamente non saprei proprio dirvi quanto in vita mia abbia saputo fare di persona per adempirvi. Ma rispetto alla domanda, sento di avere la coscienza a posto. Sull'opportunità di non lasciare guidare le mie scelte dalla gerarchia della Chiesa Cattolica avevo le idee chiarissime sin da quando quel leader giocava con le bambole o, come è più verosimile nel suo caso, con i soldatini. Per cui faccio un cenno d'assenso, mi compiaccio che qualcuno abbia introdotto in una campagna elettorale smolta come quella che stiamo vivendo un elemento forte, perché quanto a forza lo ammetterete in questo paese il Vaticano non scherza, e proseguo per la mia strada. Poi svolto l'angolo ed ecco, su un manifesto quasi identico a quello di prima c'è ancora quella faccia lì. Stavolta mi chiede perentoriamente se a decidere sono io o il sindacato. Il problema, nel caso, è quello di liberare il lavoro, l'impresa e naturalmente la vita. E lì per lì la mia reazione è più o meno la stessa, forse non saprei come fare a liberare il lavoro e l'impresa per non dire della vita, ma quanto alla necessità di decidere sempre e comunque per conto mio non posso che essere d'accordo. Con il sindacato, a dire il vero, qualche trascorso ho avuto, ci ho trascato più di quanto abbia fatto con il Vaticano, ma è roba di tanto tempo fa, e me ne vado contento cercando di non posare lo sguardo sui tanti fotocollo di aspiranti volti nuovi della politica che in questi giorni di primavera fioriscono sui cantoni. E solo dopo un po' che, riflettendoci, comincio a chiedere che cosa ci sia in comune dopo tutto tra il Vaticano e il sindacato. Sono due parole di quattro sillabe, sì, occupano più o meno lo stesso spazio e permettono un'analoga impostazione grafica ai due manifesti. Le due organizzazioni a cui i termini si riferiscono esercitano entrambe una certa influenza nella vita del paese, ma a parte questo si tratta di strutture con tutta evidenza piuttosto diverse. Diverse per funzione, perché la sfera della vita religiosa nel mondo moderno dopo tutto non ha un granché a che fare con quella economica, diverse per organizzazione, perché la piramide gerarchica della Chiesa nessun corpo profano può contrapporre un'analoga compattezza, e diverse naturalmente per peso sociale, nel senso che di fronte al Vaticano si prostrano i potenti del mondo, e quanti in Italia desiderano essere tali, e mentre il sindacato di questi tempi fanno tutti a gara chi con maggiore entusiasmo lo prende a legnate. Sì che l'invito a non lasciare decidere il Vaticano si spiega benissimo, quello di non delegare le proprie decisioni al sindacato un po' meno bene, ma una sua indubbia logica, ma l'esortazione opporsi a tutte e due può suscitare, come dire, qualche perplessità interpretativa. È come se fosse, se posso permettermi il termine, una proposizione vagamente sbilenca. Mi direte che queste sono sofisticherie. Entrambi, Vaticano e sindacato, in un certo senso, e parlando con tutto il rispetto dovuto, sono degli enti intermedi. La Chiesa è un'organizzazione collettiva che si interpone tra l'individuo e una realtà superiore con cui a suo avviso il singolo non è in grado di rapportarsi con le sue sole forze, che si propone, per così dire, di gestire i rapporti dell'individuo più o meno consenziente con il divino. E il sindacato naturalmente intende rappresentare i lavoratori associati di fronte al padronato, che pur avendo uno statuto esistenziale meno problematico di quello del Padre Eterno, è pur sempre un'entità alla quale non è conveniente contrapporsi da soli. Siamo allora a una nuova versione del Nedione padrone, come nel vecchio slogan anarchico? E no, niente affatto. Né Papa né sindacato, piuttosto. In questa doppia negazione non ci vuol molto a capirlo, i padroni non c'entrano niente. D'altronde non è il caso di stupirsene, perché a negare i padroni in questa campagna finora non ci ha provato proprio nessuno. Standing on the water, casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are glowing. Distant ships sailing into the mist, you are bone with a snake in both your fists while a hurricane was blowing.